Una parola chiave sul laboratorio. Bellissimo. Entusiasmante. Entusiasmante. Ecco. Piacevole. Nuovo. Scoperto, tipo. Bello, fantastico. Umido. Curioso. Incanto. È talmente bella che l'ha lasciata senza parole. Troppi rumori.